A tempo di sport con Carlo Genta. Lega Pro e Serie B le gestiamo da qui, porta i soldi con te, garantisce Pepe, se vuoi lo vedrai. Mamma mia, che imbroglioni questi sportivi, che manigoldi, dalle partite vendute, comprate, al doping, avete sentito anche nel GR, no? Rebellin che froda il fisco, che imbroglioni, che manigoldi. Allora, Mauro De Angeli in regia, Franco Piantanida in redazione, autore di tutto quello che sentirete in quest'ora, quindi prendetevela con lui. In quello stadio teso così, noi ti truppiamo la partita. Le grandi notizie non ce ne sono, di Quadrini anche qui avete sentito nel giornale radio, secondo il suo legale la Federcalcio sapeva tutto perché l'8 maggio è stato denunciato un tentativo di estorsione ai danni di Quadrini, il quale ha detto che Siena-Sassuolo 4-0 è stata partita regolarissima. Se vuoi, puoi puntare di più. Le grandi notizie oggi non ce ne sono. Signori, che scrive il manuale del piccolo scommettitore che avete letto sui giornali, o Papello come è stato presentato. Lo stesso signori che va all'interrogatorio di Bologna scortato dal detective privato Rockstar, come scrive la Gazzetta, con Spilletta della Lazio, Ugo Vittori si chiama. Non è di maschere in questo carnevale, eh? 800 24 00 24 per intervenire. Ci sono anche le maschere di Totti e Vieri, che ci sono ma non ci sono perché non c'entrano nulla, hanno detto i magistrati, ha detto il procuratore Di Martino, ma intanto sono finiti sui giornali e la parola scritta non torna indietro, e quindi bene faranno, come hanno già annunciato soprattutto Totti, a tutelarsi. C'è chi parla di sensazioni e chi di piazzare Loreto, come ha fatto Buffon, poi lo risentiremo. Per una volta viene voglia, però, almeno dal mio punto di vista, che probabilmente non sarà il vostro, di stare dalla parte dei calciatori, che saranno anche ricchi e viziati, ma sono sotto una pioggia di fango, o almeno sembra fango, il colore è quello lì, insomma. In tutta questa caricatura di calcio malato, il meglio che ci resta è la hit dell'estate, che è quella che avete appena sentito e che sentirete. Questa hit dell'estate prodotta da quattro pazzi della città di Bellavista, cioè Bari, che sono in collegamento con noi. Si chiamano Fabio Fanelli, Nicola Ippolito, Francesco Misceo e Giuseppe Grossi. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te, ciao. Buongiorno. Carlo. Fatemi ciao. Sentire la vostra voce, che diventerà la hit dell'estate. Fabio, io ho una visione. Sì. La visione di tutti i calciatori d'Italia che ballano sulle spiagge più gettonate del bel paese, puoi puntare di più, magari in versione remix. Credo, sì, il remix d'obbligo d'estate, se no non si va da nessuna parte, anche perché poi c'è Shakira che ha già fatto il suo di remix e quindi la concorrenza è spietata. Effettivamente per impegnarsi, secondo me potrebbe essere una buona strategia quella di autoparodiarsi e non prendersi troppo sul serio, perché purtroppo sono cose serie, noi proviamo sempre a ironizzarci, però sono cose che fanno male quando le si legge. Sì, intanto mi scrivono, parlate di cose serie, va bene, ecco. Un'altra volta parliamo di cose serie. Oppure c'è anche chi mi scrive, buffo il suo affannarsi a sminuire tutto, no, allora ingigantiamolo, tutti colpevoli, il paese dello scandalo, tutti corrotti, fatemi vedere cosa c'è e poi ne parliamo più seriamente. Per ora vedo una pioggia di fango, almeno sembra fango, e vedo sento di sensazioni e leggo di cose che non sono prove, dei fatti. Nicola Ippolito, leggo che sei il miglior statistico degli ultimi 150 anni. Quante probabilità c'erano che Inter-Lecce finisse con tanti gol? Ecco, questa è la stessissima probabilità per il quale Milan-Bari potesse finire con tantissimi gol. La stranezza è proprio lì. Quindi non lo so, comunque l'Inter con Lecce doveva essere una partita abbastanza agevole. Doveva essere una partita. Te l'ha detto Bellavista? Te l'ha detto Bellavista, sì. Te l'ha detto Bellavista. Giuseppe Grossi, fammi i signori. Fammi i signori. Il signore in realtà è la voce di Gianni Morandi, per cui c'è stato un po' questo cambio di corde vocali che ha creato questo equivoco. Per cui noi drammatizziamo e imitiamo, anche perché c'era un trio inizialmente quando è scoppiato lo scandalo, per cui noi abbiamo approfittato di un celebre trio e ci abbiamo fatto la canzone, insomma. E avete fatto benissimo. Ecco. Francesco Miscea, ma questo Lecce chiacchierato per voi baresi cosa rappresenta? Cosa c'è di vero? Francesco, dove sei? Sì, eccomi, scusate. Ma questo Lecce chiacchierato, Il Lecce da noi più che chiacchierato è un po' preso di mira, ecco. Ne abbiamo dette di tutti i colori sul Lecce. Ora non sappiamo quanto ci sia di vero, chi sia il capitano della giallorossa che sta ventilato in questi giorni, se effettivamente Totti o anche il capitano del Lecce, perché potrebbe anche essere lui, quindi potrebbe trattarsi, chissà, che i cugini leccesi non ci vengano a far visita l'anno prossimo in Serie B, potrebbe essere. Noi però lo speriamo perché amiamo il derby, lo vogliamo dal profondo del cuore il derby, e quindi se non riusciamo a essere noi in Serie A, beh, che vengano solo loro per quello, in vita, noi, so, certo, solo per quello, carità, perché, solo per quello, per solo carità, per quello. Solo per quello ci mancherebbe. Francesco, fammi Totti. Fammi Totti. L'imitazione di Totti? Sì, fai Totti. Totti potrebbe parlare invece con la voce di Ruggeri. Che è una delle tante voci. Però Totti, c'è da dire che nella canzone non c'è, perché al momento in cui è scoppiato lo scandalo era ancora fuori, perché quindi ci siamo soffermati sulla triade, ecco perché ci abbiamo tenuto a parodiare Bella Vista, ovviamente Bettarini e Signori. Ci sarà un sequel, no? Sì, se c'è un sequel, però dobbiamo fare un coro gospel, poi la parodia di un coro gospel, così sono in tanti, visto che qua escono nomi ogni giorno, per cui non sarà soltanto un trio, faremo un musical la prossima volta, forse. Ragazzi, nel salutarvi e ringraziarvi, intonatemi il ritornello, do il via io. Pronti? Sì, il ritornello. 1, 2 e 3, via. Lega Pro e Serie B, le gestiamo da qui. Porta i soldi con te, garantisce per te, se vuoi lo vedrai, quanti gol segnerai, anche in aura tu puoi puntare di più. Ma perché non parlate di qualche altro sport? Ce ne sono parecchi, scrive Sandro da Verona. A parte il fatto che abbiamo appuntamenti in scaletta, grazie per il suggerimento. Parliamo sempre volentieri di altri sport. Domani parleremo di basket, come facciamo ogni venerdì. E magari in questi giorni finiremo anche per parlare di sport, perché stiamo facendo altro. Loris da Pordenone, facciamo così: prendiamo il doping, lo somministriamo ai vertici della Federcalcio per migliorare le loro prestazioni e facciamo scommettere a Rebellin su chi scarica le colpe. Fabio da Bergamo, Giancarlo da Cremona. Prima Giancarlo, che era in linea prima, alla precedenza, viene da destra. Buongiorno a lei, dottore. Buongiorno. E ai suoi ospiti di prima. Sì. Allora, io la chiamo da Cremona e devo dire che la città sta vivendo ormai con un po' di indifferenza, quasi di fastidio, tutta questa situazione. Sì. Questa invasione di mezzi, sì, parabole, antenne e quant'altro. Sì. Credo, così, conoscendo bene la realtà e conoscendo anche il Tribunale di Cremona, che i magistrati sicuramente siano di assoluto valore. Sì. L'unica cosa è che non essendo abituati a questo tipo di indagine, diciamo, mediatica, la metto così, si sono lasciati un po' prendere la mano. E c'è un'immagine che vi voglio riportare negli occhi per dirvi questo. C'è il giudice, il pubblico ministero, che esce da quel portone molto vecchio del Palazzo Giustizia di Cremona, c'ha la macchina con i vetri alzati e siccome le telecamere sono assolutamente puntate su di lui, vede bene di abbassare il finestrino e di farsi riprendere. Ora, a molti sarà scritta questa immagine, ma è l'immagine esatta di quello che sta vivendo tutta la procura di Cremona. Non avrà molte altre occasioni, fortunatamente, per la nostra città. Beh, Giancarlo, sotto assedio mediatico indubbiamente, come non capita tutti i giorni. Sulla totale serietà di questi magistrati non ho il minimo dubbio, nel senso che sono noti anche per la loro serietà. È evidente che si tratta qui di gestire, e non dimentichiamolo, una questione che ha due binari: uno è quello giudiziario, che stanno seguendo egregiamente, l'altro è quello sportivo, e il fronte sportivo è ben più scivoloso. È per questo che dico, parlare di sensazioni può magari non avere un grande rilievo dal punto di vista degli sviluppi della questione giudiziaria, perché poi lì servono le prove e se prove verranno trovate si andrà avanti. Sul fronte sportivo quelle sensazioni rischiano di essere molto più pesanti e pericolose, per questo che dico bisognerebbe fare molta attenzione. Fabio Bergamo, buongiorno. Salve signor Genta, niente, volevo dirle che io stasera andrò alla manifestazione che si terrà qua a Bergamo e soprattutto andrò con mia moglie, andrò con un mio amico con dei bambini, perché non vogliamo fare chissà cosa, però vogliamo manifestare la solidarietà. Senta, qual è la sua personale posizione nei confronti di Doni? Non ho posizioni, cioè stiamo al di sopra, cioè aspettiamo, non si possono dare posizioni, però abbiamo una fiducia immensa in quel giocatore lì. Se dopo viene fuori che ci saranno prove che non si possono contestare, che per adesso non mi sembra, non sembra nemmeno a me. Per lui sarà dura la città nei suoi confronti, secondo me. Ma avete paura di perdere una Serie A conquistata con tutti i meriti possibili sul campo? A Doni, alla società, a Favini e a tutto quello che sta costruendo per Cassi. Sì. Dopo se ci saranno delle prove. Ma avete paura, Fabio? No, abbiamo un senso che tutto questo si va piano piano spegnendo. Poi se lui ha delle colpe o ha fatto qualche leggerezza, non lo so, per adesso non è uscito niente. Però per adesso, siccome eravamo a festeggiare poco tempo fa, così sempre un bel ambiente, una bella città, insomma, che festeggiava la promozione, cerchiamo stasera insomma, di fare un cenno di solidarietà alla famiglia Percassi soprattutto. Giustissimo, la ringrazio. Se mai torni a trovarci domani che ne parliamo, Va bene, grazie. A lei Fabio, 800240024, numero verde. Messaggi 349-238-6666, questo è il numero, il vostro contatto per i messaggi. Dicevo prima che Beppe Signore, insomma, mi sembra tutto un carnevale quello che c'è lì a Cremona, e una delle maschere nuove è quella dello 007 con cui si è presentato Signori, 007 Rockstar con Spilletta della Lazio. Buongiorno Pierpaolo da Parma. Pierpaolo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, io volevo solo intervenire dicendo che adesso veramente basta. Dopo Mocci e dopo questo veramente non ho più niente da dire. Ex abbonato Sky, adesso basta. Perché i problemi sono sempre gli ultimi, i problemi è la tessera del tifoso, i problemi sono qua, sono sempre quelli, però... Ma lei, allora Pierpaolo, lei è sorpreso di quanto sta vedendo e leggendo in questi giorni? Cioè, vedendo e leggendo i fatti di questi giorni, è così sorpreso, è così meravigliato? No, forse ha ragione lei, forse sorpreso del tutto no. Però sa, quando le cose le pensi o le parli con quattro amici al bar o in curva è un discorso. Quando però vengono fuori tante cose così tutte in una volta, da Buffon che anni fa poi è stato tra virgolette salvato, da Doni anni fa è stato salvato e tutto quanto dopo però... Beh, salvato vuol dire che non c'erano le prove sufficienti per dimostrare alcunché, ci sono state delle accuse che tutti abbiamo conosciuto e che sono ben presenti e ben note, perché quando viene fuori il nome di Doni, però c'era già finito in mezzo, senza contare poi come era andata a finire, però Bettarini era già finito in queste storie, senza poi contare come era andata a finire. Lei che cosa vede in questo marasma? Cosa vedo? Vedo che, le ripeto quello che le ho detto prima, vedo che purtroppo le colpe e chi se ne prende le colpe sono sempre i tifosi, il tessero del tifoso, trasferte vietate, qua, là, su e giù, però il resto, le cose grosse, mi passi il termine, rimangono o vengono insabbiate, da come abbiamo detto lei, la fea dal calcio, quelle cose lì, e poi finiscono. No, tutte. Io non ho detto insabbiate, attenzione. No, perdoni, l'ho detto io adesso, ma... Voglio dire, il discorso bene o male l'ha capito. Dire. Sì, il discorso l'ho capito, però lei dice finché si fanno le chiacchiere in curva, ma lei è sicuro che questi non siano, come scrive il bravissimo Goffredo Buccini oggi a pagina 20 del Corriere della Sera, quella combriccola da Bar Sport che ordinava i gol, vanterie, banalità e contatti millantati, il linguaggio dei tifosi allibratori. Insomma, è un ritratto questo in cui io mi ritrovo parecchio, insomma, nelle parole di Goffredo Buccini, collega del Corriere della Sera, mi ritrovo parecchio, ritrovo parecchi delle mie sensazioni. Io posso usare questa parola. Massimo da Modena, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo chiedere il suo parere sulle partite, perché io mi sono andato a rivedere le partite incriminate. Io, al di là dei dati statistici che le danno quei risultati improbabili e magari del numero dei gol e via, però non vedo gli episodi gara dove possa rilevare delle, così, delle combine, delle, mi sembrano partite giocate. Sì, sì, ma guardi, insomma, è molto difficile poi riguardare quelle partite con occhio malizioso, con l'occhio sospettoso di chi sa. Il calcio si presta anche fisiologicamente a queste cose o a tentativi di manipolazione, proprio perché è il più totale regno dell'alea, quindi diventa molto difficile, insomma, capire chi ci è, chi ci fa, se una cosa è stata fatta apposta oppure no. Da questo punto di vista, le sensazioni che possiamo avere davanti ad una partita, abbiamo questa parola che ritorna, le sensazioni non costituiscono prova. Ho detto prima di Buffon, parole di ieri. Mano che non è finita, piazza Loreto. Bisogna stare molto attenti, ecco, a dare dei giudizi troppo veloci. Lo dico perché anni fa ci sono passato anch'io e sono stato, tra virgolette, infangato in prima pagina per delle cose che non erano mai successe, alle quali non avevo nulla da spartire. In questo momento non scordiamoci che, come questo lo diceva un mio amico, non la mia scrittrice preferita, siamo sempre l'Italia di Piazza Loreto noi, per cui basta sentire un nome, basta che un nome venga menzionato, immediatamente c'è il titolo in prima pagina. E la motivazione reale alla base di tutto non c'è, per cui direi, prima di infangare il nome di una persona, prima di infangare anche il nome del calcio, perché poi quello che stiamo facendo adesso è solo esclusivamente questo, grandissima pubblicità a uno scandalo che per adesso di certo non ha nulla, e questo non va bene per dei codici etici e per il rispetto del prossimo. No, che non è finita, piazza Loreto. Io, al di là del riferimento storico che mi sarei risparmiato fossi stato in Buffon, a parte quello, sposo abbastanza le parole, anzi sposo in toto le parole di Gigi Buffon. Sto in questo momento dalla parte probabilmente del torto, perché, come scriveva qualcuno, dalla parte della ragione i posti erano finiti, non so se è così. Però sto dalla parte di quelli su cui piove fango. Gianni da Modena, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, io ho allenato per anni squadre di promozione di prima categoria, e le dico, delle volte i dirigenti, specialmente nelle ultime partite di campionato, mi chiedevano che partita fai oggi con la tua squadra che magari doveva vincere il campionato e salvarsi. Sì. Oppure nelle ultime partite si facevano giocare quelli che durante l'anno avevano giocato meno. Però quello che vorrei dire. Però Gianni, il confine è sottile tra logiche sportive magari un po' perverse che da noi sono la norma, cioè a fine stagione se c'è una squadra salva, l'ho detto ieri, e una che deve salvarsi e giocano l'una contro l'altra, grosso modo abbiamo un'idea di come andrà a finire, no? Quello che voglio dire è che, a parte che non mi sono mai prestato molto a queste cose perché mi vergognavo con i giocatori, tra l'altro i giocatori guadagnavano anche poco, quindi certe cose non le capiscono. Sì. Quello che voglio dire è che tutti questi ragazzi, perché sono dei ragazzi cresciuti, signori, tutte quelle persone, gente che ha vissuto una vita bella, pieni di soldi, perché si debba arrivare a fare di queste cose in un paese che vediamo come sta andando. Gigi Buffon che mi tira fuori piazzale Loreto, che lo ammiro come atleta e come portiere e come capacità. Ma non si può. Come non ho detto, no, ma sono d'accordo. Piazzale Loreto doveva risparmiarselo, perché non valeva la pena aggiungere altri connotati, altri colori a questa già fin troppo sgargiante vicenda, però il senso del suo intervento dal mio punto di vista è condivisibile. Si sta alzando un sacco di polvere e soprattutto un sacco di fango, perché è chiaro che i nomi di Totti e di De Rossi, che poi vengono eliminati, no, a posteriori, escono, sono sul giornale e per parte dell'opinione pubblica sono erbe che fanno parte di questo fascio in maniera del tutto sbagliata, a mio parere. Non sono completamente d'accordo, perché se una persona viene incriminata nella vita ci vuole anche un po' di coraggio. Sì. Se non sei colpevole, la verità salta fuori. Se viene incriminata, Gianni, se viene incriminata, se viene tirata in ballo in maniera ingiustificata, no. Perché bisogna stare attenti anche con i termini. Se una persona viene incriminata, se una persona è sotto indagine, se scopriremo che, signori, è stato tirato in mezzo e che nulla c'entra, questo è un conto. Se viene tirato in ballo qualcuno che niente c'entra con l'inchiesta, secondo me è già abbastanza grave da, da meritare una riflessione. Quindi è una situazione in cui bisogna stare attenti anche alle sfumature, mi le pare. Cose che ho sentito su Totti, guardando, io ho visto anche la partita, a parte che non c'è niente, bisogna anche che chi legge il giornale come noi si faccia un concetto delle cose, perché se uno legge che Totti c'entra con queste scommesse, perché lo scrive su un giornale, dice Totti è un disonesto, ma queste cose bisogna che una persona abbia, se legge il giornale deve anche avere un po' di cervello, se no è meglio che non lo legga. Che cosa vuole che ne dica? Però se sul giornale non sta scritto il nome di Totti, non stiamo a fare questi discorsi, siamo su un piano un po' più civile, almeno dal punto di vista giuridico. È chiaro che uno legge sul giornale un nome e un'idea se la fa, poi quanto cervello abbia, questo non, su questo non possiamo far nulla. Ci fermiamo, la ringrazio, 800 24 00 24, numero verde, poi torniamo a Bergamo per un altro appuntamento. Tanto oggi il procuratore di Napoli Gian Domenico Lepore ha detto: stiamo lavorando sul sistema di scommesse e sui risultati cambiati negli ultimi minuti, è nostro dovere capire perché, ma ha aggiunto: le indagini che stiamo facendo noi e che riguardano gli interessi della Camorra sul gioco delle scommesse per ora non hanno alcun riferimento a partite di Serie A. La nostra indagine all'inizio, abbiamo delle tracce che ci indicano che dei clan camorristici, fiutando l'affare, hanno cominciato a mettere le mani sul gioco delle scommesse di partite di calcio nazionale e internazionale. Stiamo facendo le indagini opportune, eccetera, eccetera. Sulle singole partite ancora presto per dare dei dati. Gian Domenico Lepore, procuratore di Napoli. Massimo Lavrese che scrive: ma Atalanta-Piacenza vi pare regolare? Caro Massimo, non è questione di sensazione anche qui che una partita sia regolare oppure no, si tratta di dimostrare che non lo fosse, ricordando sempre che c'è questo doppio binario per cui da un lato c'è la giustizia ordinaria e dall'altro quella sportiva, con una diversa regolamentazione della prova e dell'onere della prova stesso. Però vorrei cambiare argomento, perché c'è chi a Bergamo va in piazza per cortei di protesta e chi soltanto per festeggiare, come il popolo di Bergamo Pallavolo, che è tornata a vincere lo scudetto femminile davanti ad una marea di persone. Serena Ortolani, opposto di Bergamo e della Nazionale. Ciao Serena, grazie. Ciao, ciao a tutti. Tu vai in piazza solo per festeggiare, giusto? Veramente ci sono alcuni compagni, sì, che vanno in piazza per festeggiare questo bellissimo scudetto. Ah, ma che aria c'è a Bergamo in questi giorni? Ma ti dirò, per noi aria bellissima, perché comunque adesso vabbè siamo in giro a fare interviste, a fare tutte cose post vittoria, e per noi comunque è sempre bello, perché dopo aver vinto uno scudetto così lottato, così meritato, diciamo che solo un periodo solo positivo. Sai cosa mi ha impressionato? I dati degli spettatori, perché io credo che vincere in trasferta davanti ad oltre 7.000 spettatori al Forum di Assago debba essere un bel viaggio. Sì, diciamo che non ci bastavano gli spettatori che c'erano a Bergamo, abbiamo aspettato la quinta gara, così avevamo un po' di più. No, è veramente tanta gente, e poi il Forum era veramente un gran palazzetto, cioè bello bello. Poi giocarci è sempre una grande emozione, quindi cioè, è stato uno spettacolo. Sì, però torno a ripetere, anche per un movimento con tanti praticanti, anche per un movimento in crescita, anche per un movimento, permettimi, positivo come il vostro, questi dati di pubblico sono impressionanti, o mi sbaglio io, o esagero io, o non sono informato io? Beh, sì, sono tanti, di solito anche perché i palazzetti sono più piccoli, quindi non non così tante persone, comunque i playoff anche a Bergamo si riempiono sempre palazzetti. E quindi una cosa molto positiva, perché più gente c'è meglio è, insomma. Dopo 5 anni, dove avete trovato la chiave per questo scudetto? La chiave è stato nell'obiettivo principale dell'anno, perché abbiamo lasciato andare la Champions, alcune partite non siamo andate tutte a giocarle per essere più tranquille e per poi giocare bene in campionato fin dall'inizio, e poi comunque siamo state grandi noi, perché insomma ce l'ha messo l'anima per questo scudetto, perché veramente lo volevamo. Veramente lo volevate. Senti, un'ultima cosa, stai ben attenta. Posso scommettere su un grande europeo dell'Italia a settembre? Scommettere in che senso? No. Mettere dei soldi. Vado dal tabaccaio, dal dentista. Della nazionale? Sì, certo. Siamo campionesse in carica, la squadra è forte anche quest'anno, sicuramente siamo delle grandi giocatrici, però c'è sempre da lottare, perché anche le altre squadre sicuramente non demordono, insomma. Serena, ti ringrazio, un abbraccio. Un abbraccio a tutti quanti, ciao. Buona festa, ciao, grazie. E grazie a Serena Ortolani. Fatemi risentire la musichetta della Pantera Rosa, per favore. Anche perché via SMS mi arriva una rettifica secondo cui la spilletta dello 007 ingaggiato da Signori non era della Lazio ma dell'agenzia investigativa per cui lavora, che ha, certo sta scritto sui giornali, ma non mi sembra una questione di cruciale importanza. Magari tiene la Roma questo Ugo Vittori. Claudio da Udine, buongiorno. Salve, buongiorno. Saluti, vi faccio complimenti per la trasmissione e volevo dire solo una cosa. Io vi parlo anche come titolare di una ricevitoria dove raccogliamo le scommesse, no? Sì. E praticamente per tutto il campionato noi quattro fedeli amici al bar abbiamo fatto le nostre varie scommesse quasi ogni giornata di campionato. Sì. E poi tra l'altro voglio dire che proprio noi qua nella nostra zona, sui quotidiani locali, è uscito che ci sarebbe Lecce Udinese tra le partite indagate, insomma. E volevo così sottolineare il fatto che si potrebbe muovere veramente un grande vespaio, perché noi quella giornata lì, essendo anche tifosi dell'Udinese, essendo stata strafavorita, perché usciva da una serie di partite veramente giocate alla grande, e l'Udinese ha perso. Noi per quella partita lì, mi ricordo, quel giorno lì abbiamo ancora le schedine in mano, abbiamo perso 3.800 euro. Però ci sono dei nostri due amici della nostra compagnia che dicono: ma scusi, quanti siete a giocare? In quattro fatidici amici al bar. Ah, quindi avete messo un millino a testa giù di lì? No, perché erano delle scommesse con più partite. Ah. Erano delle scommesse disposte con più partite. Però il fatto è che va veramente a finire che due dei nostri amici della compagnia dicono: se effettivamente viene confermato qualcosa, noi andiamo per via legali. Cioè, quanta gente ci potrebbe essere che può chiedere i danni a questo punto? Sì, no, questo è un fronte dei responsabili. Questo è certamente un fronte, però a parte che in questo elenco di partite sospette o sospettabili non ricordo quel Lecce Udinese, però anche qui torno a ripetere: una volta che si chiacchiera di una cosa, poi bisogna mettere sul tavolo le prove e poi vediamo, compresi i vari aspetti collaterali dei danneggiati da questa per ora ancora presunta vicenda, no? Quindi mi sembra andare un po' troppo oltre la linea di confine. Massimiliano, Genova, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, complimenti anche a lei per la sua trasmissione. Ma io volevo fare un commento in merito alla sua affermazione, ovvero quando diceva che sappiamo benissimo come vanno a finire certe partite a fine campionato tra una squadra che è salva ed una che invece si deve salvare. Vorrei portare l'esempio. Ma perché siamo dei perversi o dei pervertiti, sì, noi italiani? Perché lo sappiamo? Perché? No, nel senso, l'ha detto lei, no? Questo, nel senso, ma infatti, ma secondo lei perché lo sappiamo? Perché lo sport è questo o perché il nostro sport è questo? Perché il nostro sport è questo, probabilmente. Quindi comunque, c'è un vizio di fondo. Secondo me sì. Ma io volevo portare ad esempio il Genoa, del quale sono tifoso. Sì. Il Genoa quest'anno ha giocato le ultime 6 partite con 3 squadre, anzi 4, c'era anche il Cesena invischiato allora, per la retrocessione. Mm. Allora, nelle ultime 6 partite il Genoa ha battuto prima il Brescia 3-0, sì. La settimana, che poi è andato in Serie sì. B. La settimana dopo ha battuto il Lecce 4-2, se non ricordo male. Sì. Dopo che si è salvata la penultima giornata a discapito della Sampdoria, che è retrocessa dopo che noi abbiamo vinto il derby 2-1. Sì. Ecco, qui sta, direi che è una bella inversione di tendenza, uh-huh. Se mai c'è stata. La cosa che dispiace è che adesso una di queste partite, insieme alla vittoria in rimonta contro la Roma, siano due partite del Genoa che sono sotto inchiesta, comunque sì. Sono sotto esame. Sì. E dispiace perché soprattutto per quella con Lecce, quando veramente ci potevano essere 1000 condizionamenti a non vincere, sì. Se non altro per vedere i cugini, gli amati, no, odiati cugini. Mi scuso un attimo Massimiliano, cioè, vedo Guido Salvini che sta parlando con Sky. Rogatorio o altri provvedimenti che consentano di o eseguire la misura o comunque fare un interrogatorio anche all'estero. Questo era un pezzo di battuta del GIP di Cremona che sta indagando sui fatti. Sì, è vero, posso capire che dispiace il comportamento. Allora, io mi limito al comportamento sportivo che posso leggere. Quello del Genoa è stato esemplare ed è stato per il nostro sport e per il nostro calcio un comportamento in controtendenza, perché tutti noi saremmo stati portati a dire o a scommettere su risultati diversi di quelle partite, ma per nostra perversione probabilmente, perché a fine stagione siamo abituati a ragionare così, vuoi per logiche sportive, vuoi per logiche di turnover, vuoi per logiche di motivazioni, vuoi per logiche un po' più striscianti e sotterranee di magari di favori di mercato futuri o di favori in altri campionati. Insomma, non sta bene da noi fare lo sgambetto a chi sta soffrendo per conseguire un risultato sportivo se tu il tuo l'hai già conseguito. Questa è la logica sulla quale siamo abituati a ragionare. Tanto arrivano da Tempo di Sport anche messaggi di irresistibile comicità come questo: all'estero sono tutti santi, in Italia tutti perversi, ma basta con queste bufale di sinistra. Pensate un po', bufale di sinistra. Io non ho mai detto che in Italia sono tutti dei porci e all'estero sono tutti dei santi, non l'ho mai detto. Dico solo che per nostra mentalità siamo abituati a ragionare in questa maniera. Magari altrove avvengono le stesse cose in forme diverse, o comunque si ha una mentalità differente nell'approcciare le partite, la competizione. Non sto dicendo che il peccato è solo dalle nostre parti, che il peccato sta solo in Italia. Anzi, all'estero e non solo nel calcio, i loro guai e le loro porcate le hanno fatte come? Perché ad esempio nell'NBA di cui stiamo celebrando le finali hanno avuto casi di arbitri scommettitori che pilotavano i punteggi delle partite. Magari qualcuno se ne ricorderà, ma ce ne sono molti altri di casi in giro per il mondo che non riguardano gli italiani e che non riguardano nemmeno il calcio. Marco da Milano, buongiorno. Ah, buongiorno Carlo. Senti, io sì. A parte il riferimento a Piazzale Loreto, che veramente... Che veramente si commenta da sé, insomma, sì, che veramente è stato, diciamo così, un autogol di Buffon, una buffonata. Però volevo dirti questo: è un po' di giorni che mi domando, forse è una domanda ingenua, ma se quando io scommetto su una partita, no, che magari la danno a 3, a 4, a 5, quello che è, la somma che metto su questa partita vale sia per la Serie A che per la Serie B che per la Lega Pro. Sì. Che bisogno ho di comprare una partita di Serie A che mi costa di considerazione più, corretta quando... considerazione corretta, tanto che considerazione corretta, Marco, che molti ascoltatori fanno anche via SMS e io pongo la stessa domanda, ma la mia risposta l'ho già data nei giorni scorsi. Io a imbrogli di questo tipo, a partite pilotate dall'esterno, in Serie A credo pochissimo, ma semplicemente perché è molto più facile andare ad operare per fare dei soldi nel sottobosco, dove le zone d'ombra sono tante, dove i problemi sono tanti, dove è anche più facile mettere le mani, no? Piuttosto che andare a taroccare la partita di Serie A monitorata da mille telecamere in cui ti leggono il labiale, in cui hai maggiori possibilità di essere pizzicato se combini qualcosa di poco chiaro. È per questo che io credo poco nell'operato di questa organizzazione, di questa banda di pazzi sulle partite della Serie A. È chiaro che infatti stanno emergendo le cose che stanno emergendo dal punto di vista dei fatti riguardano principalmente i campionati minori, perché mi sembra che, insomma, sulla colpevolezza almeno sportiva di, ad esempio, di Paoloni, poi di quelli dell'Ascoli discuteremo, però lì davvero è già emerso qualche fatto. Al piano di sopra solo voci, o meglio solo sensazioni. Intanto vorrei per chiudere fare due chiacchiere con Carmine Fotia, direttore del Romanista. Buongiorno direttore. Buongiorno caro. E vorrei una tua opinione sul primo tassello della Roma, il primo tassello certo, che è un allenatore che mutua la sua filosofia da Paolo Coelho del Cammino di Santiago. L'importante è non è importante la destinazione ma il viaggio. Luis Enrique arriva. Sicuramente, però fammi dire una cosa prima, visto che vi ho sentito su quello che vuoi del calcio scommesse, perché il problema è questo, che siccome il marcio nel calcio italiano esiste, che lo sappiamo tutti, esiste nelle serie minori, esistono infiltrazioni delle organizzazioni criminali molto pesanti, il rischio di un'inchiesta che getta e di giornali, di media che gettano in pasto all'opinione pubblica i nomi di grandi personaggi come Totti e De Rossi, come è avvenuto, che poi non c'entrano assolutamente nulla perché gli stessi inquirenti hanno smentito che ci sia nulla su di loro, rischia di avere il risultato opposto, cioè tutti colpevoli, nessun colpevole. Questo è molto grave, molto grave, perché invece bisogna, io voglio la moralizzazione del calcio, ma se si fanno inchieste così che lasciano, se il capo della procura esce dicendo ho la sensazione, sono due giorni che lo stiamo dicendo, perché al di là dei riferimenti a piazzare Loretto del tutto fuori luogo, le parole di Buffon sono poi dette in altri modi e con altri termini anche oggi, sono ripetute anche oggi da Tommasi, presidente dell'Asso Calciatori, e questa è una cosa che condivido, direttore. Sì, perché poi lascio a voi valutare, perché essendo l'unica partita ufficialmente sotto inchiesta che Interlecce, si scatenino queste voci contro la Roma, e qui mi collego. Ma contro la Roma, e contro tutti gli altri, sia chiaro. Sì, però non è un caso che sia stata messa, gli unici due grandi giocatori che sono stati messi in mezzo sono stati Totti e De Rossi. Questo è un fatto che deve fare riflettere. Io penso che la nuova Roma che si annuncia con l'arrivo di Luis Enrique è una Roma che fa paura a tanti, perché sarà una Roma sfrontata, aggressiva come piace a noi romanisti, una Roma che farà un gioco spettacolare, una Roma che con la nuova proprietà americana non rispetterà più tutti i patti e sottopatti che ci sono nel calcio italiano. Ricordo a tutti che l'anno scorso ci fu una partita scandalosa sulla quale non i magistrati ma la giustizia sportiva avrebbe dovuto intervenire, quando si svolse Lazio-Inter all'Olimpico con i tifosi laziali che praticamente imposero ai giocatori di perdere la partita. Questo è un fatto che non c'è bisogno dei magistrati, qui dovrebbe intervenire la giustizia sportiva. Comunque questa è una parentesi polemica sulla quale mi piacerebbe dibattere con te. Adesso purtroppo non ho i tempi, però prenderemo un appuntamento per farlo, perché anche qui mi sembra che ci sia un certo discrimine tra taroccare una partita e il non giocare una partita in quella maniera. Esatto, ma sono d'accordo con te, però questo significa che esiste un discrimine tra i reati che devono essere perseguiti dalla magistratura penale e l'illecito sportivo, cioè la mancanza di realtà sportiva, che deve essere perseguito dalla giustizia sportiva. Sono due aspetti diversi, certo, ma comunque oggi è il giorno di Luis Enrique, quindi parliamo di Luis Enrique. Guarda, direttore, purtroppo devo chiudere perché mi fanno i segni. Ci sentiamo settimana prossima per Luis Enrique è una grande promessa, una grande speranza. Grande promessa e grande speranza per la Roma, e anche un allenatore sufficientemente esotico per accendere un po' la fantasia dei tifosi. Io ringrazio Carmine Fottia, direttore del Romanista, ringrazio Franco Biattini in redazione e Mauro De Angeli in regia. Ci sentiamo domani con Palla Spicchi, per fortuna.